con Paul, ma è solo un inganno. È lui che sa tutto e sa recitar, ti dice ti amo e poi si fa male. Da te che per pace di guerre che sai, davvero marito Gianciotto tu avrai, vietto guerriero ti spiegherà l'inganno che ha ucciso la felicità di un amore che senti, lo sentivi chissà, ma l'odio nel cuore è la realtà, non senti per loro che vedere dovrai e senza dir niente sopporterai anche lui che in te crescerà. Ciò che è malvagità, ma la gravidanza ti porta laddove Lancelotto nel libro ti ha fatto sognare, ma i sogni purtroppo non sono realtà, il bimbo che in grembo non nascerà, ma lui che poi ti condannerà e prendendo il suo posto Paolo farà che la gioia in te sarà con la morte crudele, a lui che si sa che è solo sposato e non certo amato e non ha accettato di essere tradito, e leggera francese tradire lo sai ti porta laddove punita sarai. Seguendo un amor que no se enferma más.